Mango Tart legge Manacled di Sending You. Capitolo 2. Ermione, sentì qualcuno sospirare. Alzando bruscamente gli occhi dalle manette, vide una testa che spuntava dalla tenda divisoria. Socchiuse gli occhi e la fissò. Era Anna Abbott. Un basso sussulto di orrore le sfuggì dalle labbra. Le mancava un occhio. Quello destro la fissava, ma quello sinistro era sparito. C'era un buco nero e aperto al suo posto, come se le fosse stato strappato via. Lei alzò immediatamente la mano a coprirsi il lato sinistro del viso. «Mi dispiace. È sempre terribile per le persone la prima volta che lo vedono. Che cos'è successo?» Forzò le parole. Non conosceva nessun incantesimo che cavasse gli occhi in quel modo. Ce n'erano molti accecanti, ma nessuno che desse risultati così grotteschi. L'Umbridge l'ha tirato fuori con la punta della sua bacchetta quando ho cercato di scappare. Ha fatto in modo che i guaritori lo lasciassero così, perché facesse effetto. Anna girò leggermente la testa per nascondersi ulteriormente. Però si è messa nei guai facendolo. Abbassò il viso in modo da guardare il pavimento. La sua voce suonava in qualche modo morta. «Di solito ora taglia le dita, se sei rispettosa, se cerchi di scappare, se la guardi male. Kalie e Angelina non ne hanno quasi più». La guardò con l'occhio rimasto. «Lascia morire la Grifondoro che è in te, Ermione. Non cercare di fare la coraggiosa, non cercare di usare l'intelligenza. Tieni la testa bassa. Sono mesi che la gente cerca di scappare. Chiunque venga catturato viene mutilato. Chiunque esca, ci sono voluti fin troppi tentativi prima che ci rendessimo conto che le manette che ci hanno messo...» Alzò il polso ricoperto dal bracciale di rame. «Hanno una specie di traccia dentro. Se riesce a superare le guardie, mandano l'Airiv e appendono il cadavere nella sala grande, in modo che tutti possano vederlo decomporsi». Ermione si sentì come se fosse stata colpita violentemente al petto. Tese le dita sul tessuto della coperta. Riusciva malapena a respirare. «Chi?» «Ginny. È stata la prima che hanno riportato. Tutte pensavamo che tu ce l'avessi fatta ad uscire. Eri scomparsa. Non avevamo capito che ti avevano messo da qualche parte». Si interruppe e la fissò. «Non hai idea del perché ti hanno tirata fuori, vero?» Lei scosse la testa. «Le guardie parlano. Dopo la guerra tutti ci aspettavamo che il Signore Oscuro avrebbe iniziato a schiavizzare i babbani, ma a quanto pare i suoi ranghi sono più sottili di quanto pensassimo. Essere immortale lo ha reso paziente. Ha deciso che ripopolare i ranghi dei puro sangue doveva essere il primo punto del suo programma. Li ha fatti personalmente accoppiare e sposare tutti, dando loro l'ordine di iniziare a riprodursi». Mentre le dava quell'informazione, aveva il volto contorto dallo sdegno. Ermione aggrottò le sopracciglia per la sorpresa. Un programma di ripopolamento. La guerra aveva comportato perdite elevate, data la dimensione della popolazione magica, ma non pensava che Voldemort se ne sarebbe accorto, né tantomeno che gli sarebbe importato. I matrimoni combinati non erano esattamente rari tra i puro sangue, ma renderli obbligatori le sembrava estremo. Si chiese come si fossero sentiti i suoi seguaci. «Quasi non sono nati bambini. I tassi di fertilità dei puro sangue sono in calo da anni. C'è stata qualche gravidanza che ha fatto sperare tutti. La maggior parte è finita con dei magonò o è stata interrotta prima della fine. O ci sono stati aborti spontanei. Beh...» La voce di Anna si fece amara. «A quanto pare affrontare l'estinzione del mondo magico europeo ha aperto un po' la mente del Signore Oscuro riguardo alla purezza del sangue. La magia è potere, lo sai. Ha deciso di iniziare un programma di ripopolamento con tutte le prigioniere mezzo sangue nate babbane che gli capita di avere a portata di mano. Solo donne, dato che è un destino peggiore della morte che un maschio nato babbano tocchi una femmina puro sangue. Saremo tutte costrette a riprodurci finché non li potremmo più. Sembrava nauseata tanto quanto lei stava iniziando a sentirsi. Ecco perché ti hanno fatto uscire, continuò Anna, gesticolando impotente. Usano i registri scolastici e i guaritori per decidere chi di noi è idonea. Quella con cui stavi parlando è a capo di tutta la faccenda. A quanto pare specializzata in genetica magica. Siamo le sue cavie da laboratorio. Controllano la fertilità di tutte. Iniziò a piangere. Hermione la fissò, sentendosi svenire dallo shock. Non poteva essere vero. Era tutto troppo orribilmente distopico. Stava di certo avendo un incubo, ancora chiusa nella sua cella. Dobbiamo andarcene, disse, con la voce più ferma possibile. Anna scosse la testa. Non possiamo. Non mi hai sentito prima. A meno che tu non ti tagli le mani, non potrai mai andartene con quelle manette addosso. Non ci tracciano qui. Angelina ha perso l'indice per scoprirlo. Lo fa il Signore Oscuro personalmente. Ecco perché ogni volta che qualcuno scappa è sempre la Eriv che lo insegue. Anna si guardò rapidamente intorno, inclinando la testa per avere una visione migliore del pavimento oltre le tende. Lei seguì il suo sguardo. Non c'era niente. Chi è la Eriv? Chiese. Non si ricordava quel titolo. Anna alzò lo sguardo. Non lo so. Nessuno l'ha mai visto senza la maschera. Tutti parlano di lui. È il braccio destro del Signore Oscuro. Voldemort non esce molto, manda sempre lui. Hanno tenuto delle esecuzioni pubbliche qualche settimana fa, di più di 20 persone. Le ha uccise tutte con la Avada Kedavra. Senza pause. Dritto per la sua strada. Nessuno ha mai visto neanche il Signore Oscuro lanciarne così tante di seguito. Non dovrebbe essere possibile, disse Hermione scuotendo la testa dubbiosa. Anna si chinò in avanti e abbassò la voce. Lo so, ma ho visto i corpi. Li trova sempre. La McGonagall, Moody, Neville, Dean, Seamus, la Sprout, Madama Pomfrey, Flitwick, Oliver Wood. E questi sono solo quelli che conosciamo. Ce ne sono stati altri, molti altri. Parecchi membri dell'ordine hanno tentato di scappare. Sono tornati tutti i cadaveri, uccisi sempre con la Avada Kedavra. Anna esitò e la fissò intensamente. Non fare nulla di stupido, Hermione. Non ti sto dicendo tutto questo per portarti a tentare di scappare. Sto cercando di avvertirti. È un inferno. Devi essere preparata, perché se non lo sarai, andrai là fuori e verrai mutilata. E non ci avrai neanche guadagnato nulla. Sembrava sul punto di dire qualcos'altro, ma dei passi risuonarono oltre le tende. Un'espressione di terrore le si disegnò sul viso e si tirò indietro, facendo ricadere la tenda. La tenda si aprì di scatto dall'altra parte e la guaritrice di prima riapparve con aria preoccupata. Il Signore Oscuro vuole assistere di persona al tuo esame, disse, allungando la mano e afferrandole con forza il braccio. Hermione cercò istintivamente di allontanarsi, strappò il braccio dalla presa della guaritrice e si lasciò cadere dall'altro lato del letto per creare distanza. Oh, stupida piccola strega, sospirò lei gesticolando verso qualcuno che stava fuori dalla visuale di Hermione. Schiantatela e portatela qui. Due guardie apparvero da dietro la tenda e gli lanciarono due schiantesimi in sequenza. Il primo la mancò, ma il secondo le colpì la spalla. Cadde come un sasso. Quando si svegliò era su un tavolo in una sala buia. Aveva braccia e gambe legate, ancora contratte dalla tortura. Altre cinghie le coprivano la fronte e il mento, tenendole la testa ferma. C'era un mago basso in piedi su un lato. Voldemort stesso era in piedi dall'altro. Il mago stava parlando con voce sottile e tremante, gesticolando verso una proiezione del cervello di Hermione. È diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto prima. Normalmente la perdita della memoria magica avviene qu qu quasi generalmente in tutto il cervello. Una propria persona non ricorda nemmeno il suo nome, ma questa è targetizzata, come gli incantesimi di cancellazione della memoria. Una fuga dissociativa, o in questo caso molte fughe. È come se si fosse auto-obliviata. La sua magia ha nascosto i ricordi specifici all'interno di quella che posso solo descrivere quasi come una calcificazione di magia. Probabilmente non sarebbe mai potuta accadere senza le circostanze specifiche della sua prigionia. Ci è voluto del tempo. Il suo cervello ha lentamente rafforzato una linea di difesa nel corso dei mesi, come una vongola che crea una perla. Li ha seppelliti lentamente, strato dopo strato. Si può dire che alcuni siano stati protetti meglio di altri in base a quanto brillanti sono. Voldemort strinse gli occhi. Sì, Possono essere recuperati con la legimanzia. il mago sembrò farsi più nervoso. Deboli goccioline di sudore gli si formarono sul labbro superiore. È improbabile. È come un muro di occultamento individuale di eccezionale forza intorno ad ogni specifico ricordo. È possibile solo se il legilimens è sufficientemente potente. Mi piace pensare di esserlo. Disse Voldemort guardando Hermione negli occhi. Lei li chiuse all'istante, ma era troppo tardi. Pensò che avrebbe dovuto imparare l'oclumanzia tempo prima. Con la sua magia, per lo più inattiva, non riuscì a crearsi un muro di protezione intorno. Voldemort scattò come una freccia, seppellendosi profondamente tra i suoi ricordi e poi setacciandoli lentamente. Era come se la sua mente venisse schiacciata sotto quella di lui. La sua infanzia, Hogwarts. Non si interessò ai ricordi bloccati sui suoi genitori. Dopo il quinto anno, quando tutto diventò nebuloso, il suo interesse si affinò. Esaminò i suoi ricordi come guaritrice. Tutti quei corpi, tutte quelle ferite, così tante persone. Più si avvicinava alla fine della guerra, più i ricordi erano bloccati. Provò a spingersi dentro, provò a trafiggere la magia con la pura forza. Nessuno si arrese a quegli attacchi violenti e inesistenti. La stava spezzando. La forza che esercitava era incredibilmente dolorosa. In qualche modo il dolore continuava ad aumentare finché le sembrò impossibile che non ne stesse morendo. Si contorse mentre cercava di scappare, di sfuggire all'invasione. Le urla la circondarono e continuarono, continuarono e continuarono. Finalmente Voldemort si ritirò dalla sua mente, furioso. Lentamente Hermione si rese conto che le urla erano le sue. A quel punto si erano ridotte a piccoli gemiti di dolore per le corde vocali distrutte. Singhiozzi gutturali continuavano ad uscirle dalla gola, mentre il petto le si stringeva per il dolore e lottava per respirare. Non mi piace che mi si venga nascosto qualcosa. Con Potter morto non dovrebbe esserci più nulla da nascondere. Cosa stai proteggendo? Sibilò Voldemort. Le sue dita ossute le afferrarono il viso e lo girarono in modo che lo guardasse. Non lo so. Disse lei. Aveva la voce rauca e rotta e cercò debolmente di liberare la mascella dalla sua presa. Chiama Severus e la preside verrà punita per questo. Disse Voldemort. Continuò a sondare ferocemente la mente di Hermione fino a quando lei non giacque sul tavolo, ansimante e a malapena cosciente. L'Umbridge arrivò per prima, terrorizzata. Mio signore, mio signore! Disse cadendo a terra e strisciando verso di lui. Crucio! Voldemort lanciò la maledizione, la furia evidente nel suo tono. L'Umbridge urlò, gridò e gridò ancora, contorcendosi. Hermione fu quasi dispiaciuta per lei. Dopo diversi minuti, finalmente si fermò. Pensavi, preside, che seguire alla lettera, ma non lo spirito dei miei comandi ti avrebbe risparmiato una punizione? L'Umbridge si limitò a mugolare. Sapevo della tua antipatia verso la sangue sporco, ma speravo che la tua obbedienza nei miei confronti fosse una motivazione sufficiente a trattenerti. Ma forse hai bisogno di un promemoria permanente. Mio signore! Cos'è quella punizione che ti piace tanto affibbiare ai tuoi prigionieri? Le dita, vero? Dimmi, preside, quante dita ti rimarranno se ne tolgo una per ogni mese che hai passato a cercare di far impazzire la sangue sporco? La voce dell'Ambrice si alzò in un urlo. Stava ancora tremando a terra. Disse Forse dovrei essere indulgente. Voldemort, camminando lentamente verso di lei mentre piagnucolava e strisciava i suoi piedi. Tuo lavoro è stato per lo più buono. Invece di 16 le dimezzerò. 8 dita per ricordarti che ho detto che volevo che la sangue sporco di Potter rimanesse completamente intatta. Per L'Umbridge si tirò in piedi da terra, singhiozzando. Severus Piton entrò nella stanza. favore. Cosa c'è che non va? Sei incapace di sopportare le conseguenze delle tue azioni? Sogghignò Voldemort, agitando una mano mentre si allontanava dall'Umbridge. Portatela via. Rimandatela alla sua prigione quando avrete finito. Due mangiamorte si fecero avanti e trascinarono l'Umbridge fuori dalla stanza mentre lei implorava e gemeva scuse. Severus, mio fedele servitore, Disse Voldemort, voltandosi verso il maestro di pozioni. mi ritrovo con un rompicapo tra le mani. Mio signore. Disse Piton, piegando rispettosamente le mani davanti a sé e abbassando gli occhi. Voldemort Ti ricordi la sangue sporco, presumo? tornò verso Hermione, fissandola e facendosi scorrere un dito scheletrico lungo la bocca senza labbra. Certo, era una studentessa insopportabile a cui insegnare. Lui si avvicinò per esaminare Hermione ancora legata al tavolo. Infatti, è buona amica di Harry Potter. E il ragazzo che è morto. Disse Voldemort accarezzando leggermente la bacchetta. Era anche un membro dell'ordine, come sono sicuro che ricordi dei molti anni come mia spia. Quando Potter morì fu catturata e io ordinai che fosse imprigionata, ma che non le venisse fatto del male nel caso avessi avuto bisogno di lei. Sfortunatamente la preside di Hogwarts pensò bene di punirla anche per le offese passate. L'ha tenuta per tutto questo tempo in una cella di deprivazione sensoriale. Piton allargò leggermente gli occhi. Voldemort gli appoggiò una mano sulla spalla. Secondo i guaritori, l'esperienza ha permesso alla sangue sporco di nascondere i propri ricordi, schermandoli da se stessa e da me. L'identità dei suoi genitori, che non ha importanza, ma molto più rilevanti ricordi della guerra, in particolare verso la fine. Questa perdita di memoria è avvenuta dopo la morte di Potter, dopo la fine della guerra. Cos'è che starebbe nascondendo? C'era minaccia nella voce bassa e sinuosa di Voldemort. Fece una pausa per un momento e poi guardò Hermione. Forse, dato che l'hai conosciuta in quel periodo, potresti avere qualche idea su ciò che manca. Certo, mio signore. Hermione trovò gli occhi freddi e senza fondo di Piton che la scrutavano. Non le era rimasta alcuna forza per cercare di resistere mentre lui affondava nella sua coscienza. Non si preoccupò dei suoi primi ricordi, andò direttamente alla guerra e ci passò attraverso velocemente ma accuratamente. Sembrava avere delle categorie specifiche da perseguire: guarigione, produzione di pozioni, riunioni dell'ordine, ricerca, conversazioni con Harry e Ron, combattimenti, la battaglia finale. Ogni volta che si imbatteva in un ricordo bloccato, sembrava soffermarsi e considerare l'ambiente circostante prima di tentare di penetrarvi. La sua invasione fu molto meno traumatica di quella di Voldemort, ma lei si ritrovò comunque a piangere e rabbrividire quando finalmente si ritirò. Strinse spasmodicamente le mani alle cinghie. Affascinante. disse Piton, fissandola con un'espressione un po' combattuta. Qualche intuizione? Voldemort gli strinse la mano sulla spalla, il tono sospettoso. Piton si allontanò da Hermione e abbassò gli occhi. Per essere onesto, mio signore, la sangue sporco e io abbiamo avuto pochissimi contatti durante gli ultimi anni della guerra. Le riunioni dell'ordine di cui ero al corrente sono tutte lì. Il poco altro che sapevo di lei era che si teneva lontana dai combattimenti, lavorando come guaritrice e produttrice di pozioni. Quei ricordi sembrano intatti. Non so cosa possa nascondere. Se l'ordine aveva ancora qualche segreto, voglio conoscerlo, disse Voldemort stringendo gli occhi scarlatti. Certo, disse Piton, il tono morbido ed educato. Purtroppo la maggior parte dei membri dell'ordine più informati sono morti ora, o durante la battaglia finale o per le torture o i tentativi di fuga. A parte la stessa signorina Granger, è probabile che non ci sia nessun altro ancora in vita che abbia quelle informazioni. Voldemort fissò Hermione. Gli occhi rossi erano furiosi e calcolatori mentre si passava lentamente un dito lungo la bocca. Tornò bruscamente a guardare il guaritore della mente. «C'è un modo per recuperare questi ricordi», disse, la bacchetta che gli pendeva dalla punta delle dita con disinvolta minaccia. «Beh, è molto difficile da dire». Lui impallidì. «È possibile, ora che le circostanze che l'hanno causato sono state rimosse. Con il tempo potrebbero ristabilirsi da soli». «E la tortura? Ho fatto breccia nei ricordi obliviati con la tortura in passato». Il guaritore sembrò diventare verde. Potrebbe funzionare, ma non c'è modo di sapere quali si sbloccherebbero. Potreste recuperarne solo alcuni prima che lei impazzisca. Voldemort fissò Hermione, speculativo. Allora voglio che sia tenuta d'occhio, con attenzione, da qualcuno che se ne accorga nell'istante in cui cominciano a tornare. Severus, la lascerò sotto la tua responsabilità. Io... Certo, mio signore. Piton fece un basso inchino. Ti opponi? Voldemort usò la punta della bacchetta per costringerlo a tornare in piedi. Inclinò la testa di Piton all'indietro finché i loro occhi non si incontrarono. Mai. Ogni suo desiderio è un ordine. L'espressione raccolta di Piton si increspò sotto il suo sguardo. «Eppure hai delle obiezioni», disse Voldemort, ritirando la bacchetta e tornando a fissare Hermione. «Io partirò domani per la Romania», rispose Piton, «per indagare sulle voci di insubordinazione di cui abbiamo sentito parlare. Il viaggio, come mi ha fatto notare quando me lo ha assegnato, sarà delicato, complesso e rigoroso anche senza l'aggiunta di un prigioniero che richiede un'attenta sorveglianza. Sono riluttante ad eludervi in entrambe le questioni». Si mise una mano sul petto e si inchinò di nuovo. Voldemort fece una pausa e sembrò riflettere, appoggiando le mani sul tavolo accanto a Hermione e chinandosi a studiarla. Mentre stava lì, un movimento dall'altra parte attirò la sua attenzione. La guaritrice responsabile del programma di ripopolamento si era avvicinata e stava sussurrando una domanda al guaritore della mente. «Mamma mio signore!» disse il guaritore della mente, avvicinandosi con esitazione. «La guaritrice Stroud ha portato alla mia attenzione un punto che potrebbe interessarle». «Sì?» Voldemort non sembrava interessato. Non alzò lo sguardo verso nessuno dei due. «Una gravidanza magica, mio signore», disse la guaritrice Stroud con un sorriso orgoglioso. «Ci sono alcuni casi registrati che indicano che tali gravidanze hanno la capacità di rompere gli stati di fuga magici. La magia del bambino è compatibile ma abbastanza diversa da quella della madre da poter avere un effetto corrosivo sulla magia accumulata. Non è niente di certo, data la rarità della cosa. Tuttavia è possibile. La signorina Granger ha una capacità magica eccezionale. Voi stesso lo avete notato e avete voluto che fosse inclusa nel programma di ripopolamento. Se la lasciate all'interno del programma, c'è la possibilità che una gravidanza possa sbloccare i suoi ricordi, ma... Esitò leggermente. Cosa? Voldemort alzò bruscamente lo sguardo verso la guaritrice Stroud, facendola impallidire e trasalire. Voi non sareste in grado di ispezionare la sua mente durante la gravidanza, disse Disse la guaritrice Stroud parlando velocemente. le magie invasive come la legimanzia comportano un alto rischio di aborto spontaneo. Spesso è così traumatico che può portare a un'infertilità magica permanente. Si dovrebbe aspettare, anche se si sapesse che i ricordi stanno tornando, fino alla nascita del bambino, a meno che non sia il padre. Che condividerebbe una firma magica con il bambino a eseguire la legimanzia. Voldemort la fissò pensieroso, facendosi scorrere le dita sul petto come se si stesse lenendo una ferita. Sì, Severus, mio signore, l'Airiv è un legilimens eccezionale, vero? Infatti, mio signore, disse Piton. la sua abilità è probabilmente pari alla mia. L'avete fatto addestrare con molta attenzione. Sua moglie è sterile, vero? La domanda era rivolta alla guaritrice Stroud. Sì, mio signore. Rispose lei immediatamente. Allora manda la sangue sporco all'Airiv. Lasciate che si riproduca con lei e che la controlli. La Stroud annuì avidamente. Posso portarla lì in 2 settimane. Voglio prima assicurarmi delle sue condizioni di salute e farla addestrare. 2 settimane. Finché non rimarrà incinta, voglio che sia portata qui ogni 2 mesi per poter esaminare la sua mente personalmente. Sì, mio signore. Riportatela ad Hogwarts allora. Voldemort li liquidò con un gesto della mano. Il corpo di Hermione aveva ancora dei leggeri spasmi mentre le cinghie che la tenevano prigioniera venivano eliminate. Sentiva di dover fare qualcosa, sputare, rifiutarsi o supplicare. Tutto tranne che stare lì sdraiata mentre Voldemort le imponeva di riprodursi con quella semplicità. Il suo corpo si rifiutò di collaborare. Non poté fare nulla mentre mani incuranti la trascinavano via dal tavolo e la facevano levitare lungo un corridoio.